Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Destini incrociati oggi vola al di là dell'oceano, negli Stati Uniti. Proprio qui, negli anni 70, fu coniato il celebre suffisso Gate, in riferimento allo scoppio improvviso di uno scandalo con notevole risonanza mediatica. La madre di tutti i misfatti di questo genere fu il famigerato Watergate, dal nome dell'albergo in cui furono effettuate le intercettazioni che portarono nel 1974 alle dimissioni del presidente Richard Nixon. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Oggi però non parliamo di Nixon né degli anni 70. La storia odierna riguarda un altro scandalo e con esso un altro presidente degli Stati Uniti. È una storia che soprattutto porta alla ribalta una nuova frontiera della comunicazione. Ci immergiamo negli anni 90, l'ultimo decennio del secolo breve, e assistiamo all'esplosione di quella che da molti è considerata la più grande rivoluzione della contemporaneità. Stiamo parlando dell'avvento dell'era digitale. È il 1991. Tim Berners-Lee, studioso del CERN di Ginevra, mette a punto una struttura in grado di consentire la navigazione in Internet. Si tratta dell'HTML, acronimo di Hypertext Marking Language, il sistema per consultare in modo intuitivo informazioni, dati e immagini che dà corpo al World Wide Web. Grazie all'HTML, il linguaggio con cui da questo momento in avanti vengono scritti tutti i dati della rete, la navigazione diventa universalmente accessibile. Internet, nato in America allo scadere degli anni 60 con il nome di ARPANET, travalica decisamente i propositi iniziali dei suoi creatori e pionieri. Non si limita più soltanto a essere una perla nascosta nelle mani del Ministero della Difesa statunitense, né tantomeno uno strumento di scambio di dati per poche centinaia di scienziati ed eletti. La rivoluzione digitale, a partire dal 1991, sarà alla portata di tutti. È quasi superfluo ricordare l'impatto devastante generato da Internet sulle consuetudini della civiltà occidentale e sui tradizionali mezzi di comunicazione. Il cambiamento di abitudini e di prospettive è ormai ampiamente sotto gli occhi di tutti. Eppure ci interessa ricordare l'intuizione di una persona, di qualcuno che, armato di PC, curiosità e forse anche di un pizzico di noia, è riuscito a ritagliarsi nella potenzialmente sconfinata piazza mediatica della rete una propria nicchia di interesse. Qualcuno che con ostinazione e fortuna ha contribuito ad aprire una nuova via per il futuro delle comunicazioni di massa. Stiamo parlando di un blogger e il suo nome è Matt Drudge. Matt Drudge. Classe 1966, Drudge è cresciuto a Tahoma Park, nel Maryland, non lontano dalla capitale statunitense Washington DC. Nella prima metà degli anni 80, Drudge è solo un teenager, come tanti. E come spesso accade a quell'età, non brilla di certo per la voglia di faticare sui libri. Mi sono diplomato 341esimo su 355 studenti alla Northwood High School di Silver Spring, nel Maryland. Il mio curriculum vitae era perfetto per andare a lavorare in un supermercato. Anziché al supermercato, nel corso degli anni 80, Drudge si butta nel telemarketing, lavorando come centralinista per la Time Life Books. Quello come operatore di call center è solo uno dei tanti mestieri. Matt ancora non sa quello che vuole dalla vita e piuttosto che starsene con le mani in mano fa il commesso, il direttore di un McDonald's, il fruttivendolo, il rappresentante. Insomma, si barcamena in attesa di tempi migliori. Nel 1989 Matt si trasferisce a Los Angeles in un minuscolo appartamento nel quartiere di Hollywood. Lavora come cassiere nel negozio di souvenir degli studi della CBS, uno dei grandi network televisivi americani, uno dei grandi simboli delle comunicazioni di massa tradizionali. Drudge ancora non immagina che proprio da questo negozio, così legato alla vecchia guardia dei media, scaturirà l'idea di buttarsi nella mischia delle nuove forme di comunicazione che fioriranno sulla rete. Presso gli studi della CBS a Hollywood, infatti, per anni Drudge viene inevitabilmente a contatto con i pettegolezzi che riguardano il mondo dello spettacolo e in generale dei media. Sfruttando la sua intraprendenza e i suoi contatti con l'industria e l'ambiente della comunicazione, nel 1995 Drudge inizia a inviare, con scadenza settimanale, un'email a qualche decina di amici. poche righe, in cui si occupa in sostanza di succoso gossip sulla macchina hollywoodiana dell'entertainment. Benvenuti nel paradiso dei pettegoli, in cui Drudge sembra avere finalmente trovato la sua dimensione reale. Nel corso del 1996, l'ormai tradizionale newsletter di pettegolezzi sul dorato mondo di Hollywood si tramuta lentamente in una sorta di gazzettino di gossip politico, che sfrutta i contatti nelle alte sfere che Drudge ha coltivato nei suoi lunghi anni di militanza dietro le quinte del mondo che conta. Drudge, inoltre, sceglie di trasferire ufficialmente sulla rete la sua creazione. È così che vede la luce il blog The Drudge Report, letteralmente la cronaca di Drudge. Se nel marzo del 1995 il Drudge Report può contare all'incirca un migliaio di affezionati, nel 1997 i frequentatori del sito salgono addirittura a 85.000. Un successo strepitoso, che nasce dalla nuova ricetta infallibile messa a punto da Drudge. Sul suo blog non si trova il solito chiacchiericcio sulle starlette e sugli affamati di fama, ma le notizie che riguardano i poteri forti e le alte sfere dell'economia e della politica. È Roberto D'Agostino, creatore all'inizio del nuovo millennio del celebre blog Dagospia, una sorta di versione nostrana del Drudge Report, a spiegare come la gente sia irresistibilmente attratta da questo genere di argomenti. Io ho iniziato col gossip su Dagospia, poi dopo una settimana la gente era più interessata a sapere ma cosa combinava Geronzi al ristorante il bolognese di Piazza del Popolo. Non mi chiedevano di Pippo Baudo o di qualche cantante o di Bonolis, chiedevano Geronzi, Maranghi, che le banche, c'è un pubblico target medio alto che vuole sapere questo. La politica, o meglio quello che sta dietro ai politici e alle figure di spicco che governano i destini del mondo, è molto più interessante di qualunque scoop, per quanto sensazionale, che riguardi attori o cantanti. La veste grafica del Drudge Report rispecchia questa innata vocazione da insider. Tutte le notizie sono scritte con un carattere che simula l'effetto delle vecchie macchine per scrivere, in una sorta di richiamo ironico e distaccato agli albori della professione giornalistica, ormai diventata un gigantesco carrozzone di cui c'è poco da fidarsi, o almeno questo è quello che Drudge pensa. Io non ho l'esclusiva del pettegolezzo politico, esiste anche su altri media. Siamo in un'era completamente nuova delle comunicazioni, occorre stare attenti alle fonti da cui si apprendono le notizie. Però è importante anche ricordare che solo perché una notizia proviene da una fonte del cosiddetto establishment non significa che sia vera. Il Drudge Report fa gossip travestendosi da controinformazione. Secondo il suo creatore, è un baluardo di verità che si distingue dai media tradizionali per accuratezza e, perché no, sprezzo del pericolo. Leggendo le sue pagine, o meglio, le sue pagine virtuali, si rafforza l'idea di trovarsi di fronte a verità scomode, rubate e, cosa ancora più importante, assolutamente inedite. È questa la forza dirompente del Drudge Report. Spesso le soffiate di Drudge arrivano ben prima dei TG e della carta stampata. È proprio da una di queste notizie inedite che inizierà la vera, inarrestabile ascesa di Matt Drudge e del suo blog. Sarà una soffiata che letteralmente farà tremare l'America. Già nel 1996, il Drudge Report è salito brevemente agli onori della ribalta mediatica per avere diffuso, prima dei canali tradizionali, la notizia che Jack Kemp avrebbe affiancato, in qualità di vice, il repubblicano Bob Dole nella sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Si tratta delle elezioni del novembre 1996, quelle in cui Bob Dole soccombe al suo sfidante, ovvero al presidente democratico già in carica. Non vogliamo svelarvi subito il suo nome, perché quest'uomo, che alla fine del 1996 vincerà di nuovo le elezioni riconfermandosi presidente degli Stati Uniti d'America, è il nostro secondo protagonista di oggi. La sua vita, la sua carriera, sono strettamente legate al lavoro di Matt Drudge. Quindi sarà bene tornare al blogger ancora per qualche istante. L'indiscrezione sulle elezioni del 1996 regala a Draggia e al suo sito una buona dose di popolarità. Ma è nel 1998, a 2 anni dalle ultime elezioni presidenziali, che per Draggia, per il presidente in carica, per gli Stati Uniti e per il mondo intero, si prospetta uno scossone di notevoli dimensioni. Se è vero che l'America nel corso dell'ultimo mezzo secolo ha avuto ampiamente modo di formarsi tutti gli anticorpi necessari alla sopportazione di un ennesimo scandalo, è anche vero che in certi casi ogni volta è un po' come se fosse la prima volta. È il gennaio del 1998. L'anno, neanche a farlo apposta, inizia all'insegna di una tempesta. Durante la prima settimana dell'anno nuovo, un uragano, causato dalle instabilità climatiche ricorrenti prodotte da El Niño, travolge il Canada e gli stati americani del nord-est, provocando danni incalcolabili e decine di vittime. Ma la vera tempesta, quella che si prepara a travolgere Washington, non è certo meteorologica. La sera di un sabato di metà gennaio, infatti, Matt Drudge scrive sul suo sito queste poche righe destinate a scatenare un putiferio. Pubblicato alle 23:32 del 17 gennaio 1998. Oggetto: Newsweek sopprime uno scoop su una stagista della Casa Bianca. Cronaca bomba. 23enne, ex frequentatrice della sede istituzionale, avrebbe avuto una relazione con il presidente. Il Drudge Report riferisce che solo poche ore prima il celebre settimanale Newsweek ha deciso, appena prima di mandare in stampa la sua edizione definitiva, di sopprimere una notizia destinata a scuotere Washington fino alle fondamenta. Una stagista della Casa Bianca ha avuto una relazione con il presidente degli Stati Uniti. Il nome della ragazza è Monica Lewinsky. Il presidente in carica è il democratico Bill Clinton. Bill Clinton. La tempesta, nel pieno rispetto della tradizione statunitense degli scandali, si chiamerà Sexgate. La tempesta Lewinsky porta a galla una relazione sessual sentimentale clandestina. Nulla di nuovo, dopotutto, agli occhi di un'opinione pubblica già ampiamente allenata. Siamo pur sempre nel paese in cui un presidente, forse il presidente più amato degli ultimi 50 anni almeno, John Fitzgerald Kennedy, ha intrattenuto quasi pubblicamente una relazione extraconiugale con l'attrice più bella, più famosa e più infelice che Hollywood ricordi, Marilyn Monroe. Di là delle evidenti numerose ripercussioni politiche, le indiscrezioni pubblicate da Drudge hanno altrettanti e notevolissimi strascichi mediali. Uno degli aspetti di maggior risalto della vicenda, infatti, è il riconoscimento dell'importanza di Internet e dei blog. Un settimanale istituzionale come Newsweek, certamente uno dei canali privilegiati dell'informazione mainstream, ha scelto di non pubblicare una notizia dalla portata sconvolgente, lasciando a Matt Drudge e al nuovo medium lo spazio utile per colmare un evidente buco. Drudge sottolinea come la scelta del noto settimanale statunitense sia frutto di una precisa pianificazione. Durante l'amministrazione Clinton, nel corso dell'affaire Lewinsky, che sono stato io a far saltare fuori su internet perché altre persone non avevano il coraggio di farlo, c'era una specie di tacito accordo per non far trapelare le notizie. L'interesse di Drudge invece è quello di sfruttare appieno l'ondata di popolarità che la sua nuova piattaforma informativa si è appena conquistata. Il blogger non manca dunque di rincarare la dose pubblicando il giorno seguente nuovi dettagli dello scoop. Pubblicato alle 22:33 del 18 gennaio 1998. Il Drudge Report è venuto in possesso di nuove informazioni sull'ex stagista della Casa Bianca. L'FBI è attualmente in possesso di nastri in cui la Lewinsky parla al telefono della sua relazione con Clinton e non si esclude la possibilità dell'esistenza di un abito conservato dall'ex stagista che reca tracce del DNA del presidente. La situazione col passare dei giorni rimbalza rapidamente da internet alla carta stampata e ai network televisivi. Si comincia a ricostruire la sequenza dei fatti. Monica Lewinsky, giovane neolaureata di belle speranze, tra il 1995 e il 1996 lavora alla Casa Bianca presso l'ufficio del capo di gabinetto, Leon Panetta. In questo periodo intrattiene una relazione sentimentale con Clinton. Nel corso del 1996, con l'intensificarsi della nuova campagna elettorale, Clinton, per precauzione, fa allontanare la ragazza dai corridoi della sede governativa e le trova un posto presso un ufficio del Pentagono. Monica patisce l'allontanamento e si sente ferita, come confessa in una delle registrazioni telefoniche in possesso dei federali. Sono stanca di tutta questa situazione. La odio e odio anche lui. Sembrerebbe lo sfogo di una qualunque ragazza innamorata, se non fosse che in questo caso le sorti in gioco sono ben diverse. Se Clinton ha allontanato Monica Lewinsky dalla Casa Bianca è perché evidentemente sa che una relazione clandestina può compromettere la sua carriera. Di certo il presidente non pensa che a smascherarlo, negandogli la protezione accordatagli fino a quel momento dalla stampa e dai principali network, sia il fiuto di un giovane blogger semi sconosciuto ai più. Un blogger che da questo momento in poi inaugura un nuovo corso dei mezzi di comunicazione. Nel gennaio del 1998 Bill Clinton è nel vivo del suo secondo mandato presidenziale. La sua percentuale di consensi si aggira intorno al 60%. È un periodo prospero per l'America. I mercati azionari godono di un momento favorevole, i posti di lavoro sono in crescita e il paese, dopo la parentesi della prima guerra del Golfo all'inizio del decennio, vive un periodo di pace e fruttuose relazioni diplomatiche. La bomba Lewinsky piomba sulla Casa Bianca con una violenza, oltre che una modalità inaudita. La reazione del presidente non tarderà ad arrivare, ma ormai il ciclone Sexgate è in procinto di travolgere il suo ménage istituzionale e familiare. Destini incrociati. Destini incrociati a Washington, sede della Casa Bianca, dimora del presidente degli Stati Uniti. Nel gennaio 1998, a ricoprire il ruolo di guida e punto di riferimento morale, oltre che politico del paese, è il democratico Bill Clinton. La sua credibilità, tuttavia, è destinata a subire uno scossone. Un giovane blogger, Matt Drudge, pubblica sul suo sito internet alcune indiscrezioni circa una relazione extraconiugale del presidente, risalente a un paio d'anni prima. Per Drudge si apre un nuovo capitolo. Sarà il pioniere dei blogger pettegoli d'assalto, inaugurando una nuova stagione della comunicazione che può e vuole prescindere dai canali tradizionali. Anche per Clinton, purtroppo, si apre un nuovo capitolo. È quello in cui deve difendersi dalle accuse infamanti che gli vengono rivolte e cercare disperatamente di salvare la sua immagine pubblica. Qual è il background di quest'uomo che, arrivato ai vertici del potere mondiale, si ritrova a dover fare i conti con uno scandalo di enormi dimensioni? Per scoprirlo, occorre fare un passo indietro. Io sono cresciuto in una piccola città, la tipica cittadina in cui le madri crescono i propri figli sperando che diventino presidenti. Bill Clinton nasce a Hope, Arkansas, il 19 agosto del 1946. All'anagrafe è registrato come William Jefferson Blythe III. Il padre, William Jefferson Blythe Jr., muore in un incidente automobilistico 3 mesi prima della sua nascita. La madre, Virginia Del Cassidy, affida il piccolo Bill ai genitori, proprietari di un negozio di alimentari, e si trasferisce a New Orleans per completare gli studi da infermiera. Quando torna, 4 anni più tardi, si sposa con Roger Clinton, il padre putativo da cui il futuro presidente eredita il cognome. Bill ama studiare e i libri gli fanno compagnia lungo tutta l'infanzia, che a causa della morte del padre è più dura rispetto a quella dei suoi coetanei. Studia con passione e sogna di diventare famoso. All'inizio immagina di sfondare come sassofonista, ma poi, col passare del tempo, si accende in lui l'interesse per il sociale, attitudine che certamente scaturisce anche dalla presa di coscienza delle sue umili origini e dei sacrifici che la madre e i nonni hanno compiuto per consentirgli di crescere nel migliore dei modi. La sua passione per la politica esplode letteralmente in conseguenza di un incontro. E di nuovo Clinton, in persona, a raccontarcelo. It was in July of 1963 that I went to Washington and met President Kennedy. È stato nel luglio del 1963 che sono andato a Washington per incontrare il presidente Kennedy nell'ambito del progetto Boys Nation. Lui ha tenuto un discorso. Noi ragazzi eravamo tutti schierati davanti a lui secondo l'ordine alfabetico dello stato di provenienza. Quindi io, che venivo dall'Arkansas, ero in prima fila. Gli ho stretto la mano. E ricordo di averlo ringraziato per il fatto di essere alla guida di un paese così incredibile, dove uno studente qualunque come me, che veniva da una minuscola città dell'Arkansas, non aveva soldi né aveva ancora una precisa idea politica, potesse avere l'opportunità di incontrare il presidente. In quello stesso 1963, Martin Luther King pronuncia il suo I Have a Dream, un inno alla libertà, all'uguaglianza sociale, alla parità di diritti, che accresce in Bill la voglia di impegnarsi attivamente, partecipando in prima persona alla costruzione di un paese migliore. La passione per i temi sociali e politici scorta il giovane Clinton lungo il suo intero percorso di studi. Dalla laurea in relazioni internazionali alla Georgetown University di Washington, all'approfondimento di materie come la filosofia e l'economia presso un college di Oxford, fino alla prestigiosa Law School di Yale, dove ottiene un dottorato in legge. Gli anni di Yale, oltre che per la sua formazione professionale, sono importantissimi sul piano personale. È nei corridoi della celeberrima Università del Connecticut che Bill conosce Hillary Rodham, futura compagna di una vita. È proprio lei a parlarci di quei momenti. Io trovavo che fosse molto bello e divertente. Riusciva a tenermi viva e a farmi ridere tutto il tempo. Non avevo mai incontrato nessuno come Bill. Nell'ottobre del 1975 Bill e Hillary si sposano. Sono fatti l'uno per l'altra. Entrambi politicamente impegnati, studiosi appassionati di materie giuridiche, proiettati verso fulgide carriere. Lo zampino di Matt Drudge e l'avvento del ciclone Lewinsky sono lontani anni luce. Nel 1976 Bill Clinton viene eletto procuratore generale dell'Arkansas. Due anni più tardi, appena 32enne, diventa il più giovane governatore della storia degli Stati Uniti. I suoi principali obiettivi, in linea con i principi di tutela delle minoranze e attenzione verso il sociale, sono la riforma dell'educazione e quella del sistema sanitario. Quest'ultima portata avanti con coraggio, strada per strada, casa per casa, dalla combattiva moglie, Hillary. Tuttavia, forse per colpa dell'introduzione di un'impopolare tassa sulle auto durante gli anni del suo mandato, nel 1980 Clinton perde il posto di governatore, sconfitto dal rivale repubblicano Frank DeWitt. Clinton scherza sull'argomento. D'improvviso sono passato dall'essere il più giovane governatore del paese ad essere il più giovane ex governatore del paese. I Clinton però non si danno per vinti e nel 1982 Bill torna a ricoprire la carica di governatore dell'Arkansas, ruolo che resterà suo per ben 10 anni. La crescita economica, le migliorie al sistema scolastico, la riduzione delle tasse concorrono a fare di Bill una specie di eroe nazionale, un fulgido esempio del buon governo dei singoli stati. Clinton diventa popolare in tutto il paese, tanto che i vertici del Partito Democratico scelgono di candidarlo per le primarie e quindi per la presidenza. Durante la campagna, nella quale il 45enne Clinton sfida il quasi 70enne George Bush, il leader democratico ha modo di ricordare all'elettorato l'importanza dei temi sociali e dei diritti delle minoranze. Incalzato da un giornalista, Clinton profetizza inconsapevolmente il corso della politica dei 20 anni successivi. Mi sembra che in questo paese si stiano eleggendo sempre più afroamericani, latinos, asiatici, in rappresentanza di distretti che non necessariamente sono composti unicamente da quelle minoranze razziali. Gli americani stanno cominciando a votare fregandosene delle barriere razziali e spero che questo accada sempre di più. Spero che molte più donne vengano elette. Se guardo a mia madre, a mia moglie, a mia figlia, mi viene da pensare che il mondo sarebbe davvero migliore se ci fossero loro ai posti di comando. Credo che loro abbiano un'esperienza, un retroterra, una prospettiva di giudizio e una capacità di comprensione che arricchiscono i meccanismi della politica. Le donne sanno cosa vuol dire non essere pagate adeguatamente, non avere supporto per i propri figli se sono madri lavoratrici. Sarebbe una cosa ottima se le donne salissero al potere. E io credo che questa cosa accadrà molto presto. 1992, Clinton conquista la presidenza. È il primo democratico alla Casa Bianca dopo 12 anni di uno strapotere repubblicano. Scomparsa ormai definitivamente l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza mondiale rimasta e si comportano di conseguenza. L'egemonia americana si manifesta agli occhi del mondo con tratti democratizzanti e pacificatori, che trovano nella storica stretta di mano tra il premier israeliano Yitzhak Rabin e il leader palestinese Yasser Arafat il loro perfetto coronamento. E il 13 settembre 1993, Clinton benedice il riavvicinamento di due realtà contrapposte e si prepara a un quinquennio di governo tutto sommato stabile, confermato dalla rielezione del 1996. Niente fa pensare che la situazione possa precipitare da un momento all'altro. Il 1998 invece si apre con lo scoop sulla relazione extraconiugale del presidente. La donna più importante della sua vita, per qualche interminabile istante, non sembra più essere Hillary, colei che gli sta accanto dai tempi dell'università, bensì la giovane brunetta che rischia di compromettere per sempre la sua carriera, Monica Lewinsky. Il 26 gennaio Bill Clinton tiene una conferenza stampa alla Casa Bianca, in cui risponde alle accuse rivoltegli dal blogger Matt Drudge in primis, dunque da tutti i media. Voglio dire una cosa ai cittadini americani. Voglio che mi ascoltiate. Lo ripeto un'altra volta. Io non ho avuto una relazione sessuale con quella donna, la signorina Lewinsky. Non ho mai detto a nessuno di mentire. Non una sola volta, mai. Queste accuse sono false. E io devo tornare al lavoro per il bene dei cittadini. Negare, negare, negare spudoratamente. Questa sembra essere in un primo momento la tattica scelta dal presidente Clinton per fronteggiare le emergenze. Ma le chiacchiere della piazza mediatica, partite da un blog per lo più sconosciuto, sono ormai diventate assordanti. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1998, l'anno dell'affaire Lewinsky, il cosiddetto Sexgate, che fa tremare la poltrona dello studio ovale su cui siede Bill Clinton, presidente democratico in carica. A scatenare il putiferio mediatico è stato Matt Drudge, che ha pubblicato sul suo sito, il Drudge Report, le indiscrezioni che un noto settimanale statunitense tentava invece di insabbiare. Per Bill Clinton si profilano mesi difficili, tesi a riconquistare l'autorevolezza istituzionale oltre alla serenità personale. Per Matt Drudge invece è l'inizio dell'ascesa agli onori della cronaca digitale. Racchiude in sé una potenza tale che ha lasciato tutti quanti col sedere per terra. Roberto D'Agostino, il creatore di Dagospia, il Drudge Report italiano, non ha dubbi. L'avvento dell'informazione sul web sconvolge i mezzi di comunicazione, imponendosi al di sopra delle piattaforme mainstream con la forza della sua freschezza e del contatto più immediato con gli utenti. Matt Drudge è sulla sua stessa lunghezza d'onda. To keep it going, Bisogna essere sul pezzo, essere scattanti. A volte mi capita di risistemare, riaggiornare le notizie un centinaio di volte al giorno. Si deve lavorare dal vivo. Come si suol dire, continuare a rivedere i testi. Internet ha restituito al pubblico il piacere sottile, a volte inconfessabile, del chiacchiericcio da piazza di paese. E di nuovo D'Agostino, una vera e propria autorità in materia, a parlarcene. Perché Internet poi è un social network, cioè una comunità, crea una comunità, ricrea ciò che noi conosciamo bene, la piazza del paese. La piazza del paese uno usciva e raccontava, Pinco Pallino va a letto con Tizia, quella Pinco Pallona invece non ha pagato la cambiale e l'ha buttata fuori di casa. Cioè, quello che è il pettegolezzo, le storie della piazza vengono riportate su un nuovo mezzo. La formula Drudge è vincente. Negli anni a seguire, fino ai giorni nostri, si assiste al proliferare di siti che sono vere e proprie fabbriche di giornalismo low cost, inizialmente impegnate a perlustrare con minuzia i corridoi della Washington dei poteri forti, fulcro dei destini del mondo, e poi, progressivamente, aperte anche ad altri argomenti, alla cronaca locale, allo sport, all'entertainment. Mad Drudge è fiero della sua innovazione. È diventato una specie di archivio internazionale di notizie, non solo notizie americane o britanniche o europee, ma notizie che vengono da ovunque. Credo che il futuro sia senza confini. Certo, io sono americano e lo è anche la maggioranza dei miei lettori, ma ci sono notizie da tutto il mondo e, attirano l'attenzione di tutti, anche qui in America. Un esempio di questo genere, di modernissimi aggregatori di notizie, è l'Huffington Post, creato da Rianna Huffington, ex sfidante democratica di Schwarzenegger per il posto di governatore della California. Il suo sito si contrappone a quello di Drudge per l'opposto orientamento politico. Il conservatore Drudge, proprio nei giorni dell'esplosione del caso Lewinsky, è additato da Hillary Clinton come una sorta di fantoccio del Partito Repubblicano, pronto a tutto pur di gettare discredito sul presidente. Dal mio punto di vista, tutta questa situazione è parte di un'incessante campagna politica contro mio marito. Hillary è una roccia. La sua fiducia nel marito non vacilla mai, nemmeno per un istante, nemmeno se la questione la riguarda così da vicino. Ho imparato in tanti anni di militanza politica, specialmente da quando mio marito si è candidato alla presidenza, che la cosa migliore da fare in questi casi è avere pazienza, fare un profondo respiro e la verità verrà fuori. La fiducia di Hillary non crollerà nemmeno di fronte all'evidenza. L'evidenza e con essa le ammissioni di fatto tarderanno un po' ad arrivare. Il 18 agosto del 1998 Clinton rilascia finalmente alla nazione una testimonianza in cui è contenuta, fra le altre cose, la seguente dichiarazione. In effetti ho avuto una relazione con la signorina Lewinsky, una relazione inappropriata. In effetti ho sbagliato. Più di sei mesi dopo la deflagrazione sul web e dopo più di sei mesi di polverone mediatico generalizzato, Clinton ammette le sue colpe davanti al gran giurì e alla nazione intera. La sua relazione inappropriata con Monica Lewinsky lo ha portato a mentire sotto giuramento di fronte a milioni di cittadini americani. Un errore inaccettabile e punibile con l'impeachment, ovvero il rinvio a giudizio e il congelamento dello status presidenziale per via di un illecito commesso durante l'esercizio della funzione pubblica, in questo caso lo spergiuro. Nel febbraio del 1999, tuttavia, nonostante la gravità delle azioni commesse, il Senato assolve il presidente Clinton da tutte le accuse. Cessata la questione politica e lentamente anche quella mediatica, restano però gli inevitabili strascichi personali. Adesso questo problema riguarda solo me e le due persone che amo di più al mondo, mia moglie e nostra figlia. E riguarda Dio. Devo mettere le cose a posto e sono pronto a fare qualunque cosa perché questo avvenga. Personalmente non c'è nulla di più importante per me e si tratta di una questione privata. Intendo risanare la mia vita familiare e lo faccio per la mia famiglia. Questi non sono affari di nessun altro, tranne che nostri. Hillary non ha mai mostrato segni di cedimento durante tutti i mesi di baruffa mediatica. È rimasta impassibile, incrollabile, forte come solo una donna degna di concorrere alla carica presidenziale potrebbe essere. Le scuse di Monica Lewinsky pronunciate davanti alla nazione dagli studi della ABC, al confronto con il vigore inscalfibile di Hillary, suonano come la sterile lagna di una ragazzina, per quanto bene educata. Vorrei ribadire pubblicamente che mi rendo conto del dolore e della sofferenza che hanno dovuto patire a causa di questa situazione. Io non mi sognerei nemmeno di chiedere a Chelsea e alla signora Clinton di perdonarmi, ma vorrei almeno che loro sapessero che sono dispiaciuta per quello che è accaduto e per tutto quello che hanno passato. Pace fatta in casa Clinton e alla Casa Bianca, insomma. Finito il suo secondo mandato presidenziale, Clinton si dedica alla beneficenza e al supporto, benché defilato, della carriera politica della vulcanica Hillary, prima senatrice dello stato di New York e dunque candidata alle primarie del Partito Democratico, ovvero in lizza assieme a Barack Obama, per diventare il volto democratico che aspira alla presidenza nel 2008. Una donna e un afroamericano. I democratici sembrano davvero intenzionati, in ogni caso, a cambiare il corso della storia. Anche Internet lo ha fatto, come ricorda D'Agostino. Ecco, noi facciamo parte di un racconto, di una fiction. Noi in Internet facciamo la fiction di noi stessi. Partecipiamo dentro un sito, dentro un social network, a un racconto. La nostra vita è fatta di racconti. Senza le storie non esiste la storia, quella con la S maiuscola. La storia fatta attraverso il web e le sue grandiose risorse, buone e cattive, innumerevoli e preziosissime. Una rete dove si parla e si ascolta, si legge e si scrive, si compra e si impara. Si è passati dal PC, Partito Comunista Italiano, al personal computer, dalle BR, dalle Brigate Rosse, alle PR, alle pubbliche relazioni. C'è un cambiamento totale della nostra vita, no? E quindi questo è fondamentale. Riconoscere l'importanza della rete dovrebbe essere, oggi come oggi, il primo passo verso una gestione lungimirante della politica e verso una reale presa di coscienza dei problemi di un paese. È una lezione di cui certamente, negli Stati Uniti, hanno imparato a fare tesoro. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.